Il terzo anello, ad alta voce. Francesco Siciliano legge Con gli occhi chiusi, di Federigo Tozzi. Domenico non riprese mai moglie, quantunque vi riflettesse sovente, grattandosi forte con le unghie il mento poco rasato, stringendo la pelle della gola e poi battendo le nocche su qualche cosa, ma senza farsi male. Lo annunciava con veemenza, di proposito, dopo ogni sua arrabbiatura. E credendo che Pietro si sarebbe dato agli interessi, per non trovarsi in casa una matrigna, gli diceva: «Ora toccherebbe a te. Ma tu, imbecille, fai il socialista, ma non ti vergogni!» Pietro era riuscito a iscriversi all'Istituto Tecnico di Firenze, dopo aver fatto privatamente, quasi da sé, il primo corso a Siena. Ma fu la completa sparizione di ogni legame tra padre e figliuolo. Sempre di più si trattarono come due estranei costretti a vivere insieme. E Domenico aveva smesso addirittura di voler su di lui qualunque autorità, credendo che comportandosi a quel modo gli facesse rimorso. Ma ormai non l'avrebbe perdonato mai più. Durante magari un mese Domenico era stato capace di prendere tutto in scherzo e ambedue si dicevano facezie, che qualche volta diventavano litigi. Pietro era sempre socialista, ma andava meno con gli operai. Si vergognava d'aver già 20 anni ed essere così addietro negli studi. Questa cosa l'avviliva. Presa a Firenze una camera in via Cimabue, mangiava una trattoria lì vicina. Stava lunghe ore con la testa tra le mani, immaginandosi di studiare, con un'ansia attraversata e tagliata in tutti i sensi da malumore e da malinconia, come da linee tirate con una squadra. Si sforzava ad essere soddisfatto e di affezionarsi alla scuola, ma gli pareva che i giorni fossero così staccati e separati l'uno dall'altro che sentiva prendersi dallo scoraggiamento. Il giorno dopo non era più capace a ricordarsi e a raccapezzarsi del giorno avanti e provava difficoltà a pensare ai giorni successivi. E non riuscendo quanto avrebbe voluto, nemmeno ora che ci metteva tutto il suo impegno, studiava sempre meno. Sotto la sua finestra di camera c'era la cinta di un convento di suore, nel cui giardino quasi subito dopo mezzogiorno andavano a cantare e a ruzzare un centinaio di bambine. Quanta tristezza quel baccano! Egli poi odiava le suore. Quando le bambine arrivavano all'angolo più vicino, sorrideva amaramente, sperando che lo avrebbero scorto, ma non se ne accorgevano nemmeno, e allora si infastidiva anche di loro. Della città invece non sentiva nemmeno il rumore, perché la cinta perpendicolare al muro della casa era lunga e andava a finire a un fabbricato così grande che gli tappava quasi tutta la piazza Beccaria, e di qua e di là altre case, quantunque più basse, quasi in semicerchio, chiudevano ogni cosa. Si trovava sempre a disagio, ed era come una cosa che non riusciva a spiegarsi. Non si affidava agli amici, e ne sentiva la mancanza. Si annoiava di tutto, e la cupola di Santa Maria del Fiore, velata quasi sempre di nebbia in fondo a Via dei Servi, che egli vedeva prima di rientrare a scuola, quando andava a prendere 5 minuti di sole in Piazza dell'Annunziata, gli dava uno scoraggiamento languido, che ingrandiva se qualche campana suonava. E tra tutti i rumori, verso il tramonto, flebili e lontani, gli veniva voglia di fuggire, come se l'aria ascoltasse, quell'aria trasparente, della quale aveva quasi timidezza e paura. Quando andava a cenare, cominciava a farsi buio, e sotto gli alberi della piazza Beccaria, le baracche di un circo equestre abbagliavano con i loro lumi ad acetilene, mentre un carosello non smetteva più di girare con la musica del suo organo. Egli vedeva la via Ghibellina e la via dell'Angolo, così strette che le loro case si chiudono insieme, mentre le altre, dalla parte della barriera aretina, terminano dritte dinanzi agli alberi e alla campagna. Dopo 4 mesi soli di scuola, Pietro, invece di pagare alla padrona di casa la nuova mesata anticipata con il denaro ricevuto dal padre, tornò a Siena senza nemmeno avvertirlo. Fu ricevuto come se avesse messo giudizio, sebbene un poco tardi. Ed egli non osava dire che voleva studiare da sé per fare gli esami lo stesso. Ma saputo per caso da una lettera ricevuta da Rebecca che Ghisola era a Firenze da molto tempo e non più a Radda, prese senz'altro la decisione. Domenico, che invece aveva subito sperato troppo, avendo apprezzato il suo ritorno spontaneo a Siena, spiegandolo come un ravvedimento mandato da Dio, cercava ad avere piuttosto buone maniere e gli chiedeva: «Perché preferisci stare lontano da me, che sono suo padre? Dio ti deve toccare il cuore, non te ne accorgi?» Ma visto che nemmeno ora poteva farsi obbedire, lo lasciò di più, sicuro che il tempo l'avrebbe aiutato. E Pietro, per scrupolo di coscienza e per sentirsi in diritto di fare il contrario di quello che il padre voleva, si dette a studiare con una soddisfazione prima a lui ignota. Ma la sua impazienza di rivedere Ghisola aumentava, perché metteva in Ghisola tutta la fiducia della sua vita. Stava giornate intere, solo, in casa, guardando con la faccia sui vetri, il sottile rettangolo di azzurro tra i tetti. Quell'azzurro sciocco, così lontano, gli metteva quasi collera. Ma non ne distaccava gli occhi. Le rondini, che di lì parevano nere, passavano come attraventate. Soltanto lassù, all'ultime finestre, qualcuno affacciato che non conosceva nemmeno. E allora sentiva il vuoto di quella solitudine rinchiusa in uno dei più antichi palazzi di Siena, tutto disabitato, con la torre mozza sopra il tetro arco dei Rossi. In mezzo alle case oscure e deserte, l'una stretta all'altra, con stemmi scolpiti che nessuno conosce più, di famiglie scomparse. Case a muri con 2 metri di spessori, a voltoni, le stanze quasi senz'aria, i ragnateli larghi come stracci e la polvere sulle finestre sempre chiuse e i davanzali sporgenti dalle facciate. Talvolta all'improvviso pensava a Firenze e a Ghisola, che forse aspettandolo gli avrebbe fatto un rimprovero che lo esaltava, all'Arno scrosciante, a tutte le colline sempre belle, a quelle nebbie che lasciano i muri bagnati, annerendo le pietre delle strade che sembrano ad appezzature. Il padre, parlando, gli produceva una malinconia invidiosa e si allontanava per non udirlo, per non vederlo, con un brivido. Perché nessuna parola era proprio per lui? Perché lo trattavano come se lo tollerassero anche ora? Perché tentare invano di essere come gli altri? Ma come erano fatti gli altri? Ripensava ai compagni di Firenze, ad uno per volta. E perché loro? Forse non lo ricordavano nemmeno. Da quanto era morta la mamma? Gli parevano 100 anni. E tutte le cose che si erano svolte senza bisogno di lui, a sua insaputa. I suoi occhi, che avevano una mansuetudine mistica, contrastavano con le linee magre e sfuggenti del volto, sicché subito se ne notava la differenza. Aveva quelle indefinitezze profonde e persistenti, senza nome e senza meta, che lasciano una traccia anche quando sono passate, come si vede se è passata l'acqua sulla rena. Credutosi inferiore ai suoi amici di Siena, ora conosceva lo sbaglio acre, che poteva aver conseguenze anche nell'avvenire simile ad un'espiazione arida. Ma perché aveva sperato di poter diventare un pittore? Che significava quel tentativo inutile dinanzi al suo amor proprio? Poteva non tenerne conto per credere ancora a se stesso? Si confortava sognando un'esistenza nuova e insolita. Ma quando? Talvolta essa si riperdeva ed egli non riusciva nemmeno a capire come l'avesse sognata. Ghisola era stata mandata via da Poggiameli con astuta precauzione da Domenico, che vedendo il contegno poco sicuro di lei, non volle trovarsi in impicci. Ella era andata a Poggiameli a 12 anni ed era tornata a Radda a 17. Conosceva quasi soltanto di nome gli altri parenti e non aveva più veduto le 2 sorelle, che non le erano affezionate, perché non vivevano insieme, ma andarono a prenderla alla diligenza, mettendosi le scarpe nuove e gli scialletti delle feste. Ella portò loro 2 anelli d'oro falso per regalo. La baciarono e poi si trovarono tutte e 2 impacciate. Non sapevano se la tenevano nel mezzo e camminando cambiavano sempre di posto. La minore anzi si mise dietro e quando Ghisola la chiamò con sé, invece andò lungo la proda sul margine erboso della strada, riabbassando la testa tutte le volte che Ghisola si voltava a lei, perché non voleva far vedere che la guardava. Anche la sorella più grande parlò poco, anzi non disse niente. Quando giunsero a casa dove l'aspettavano i genitori, Ghisola si mise a piangere, ma poi fecero un bel pranzo, mangiando un coniglio fritto e due galline in padella. Due galline che avrebbero dovuto campare perché avevano le ovaie grasse e piene. Il pane era stato sfornato la mattina stessa. Borio Di Sandro, un vedovo amico della famiglia che aiutava anche con il denaro, aveva portato un fiasco del suo buon vino. E il primo giorno, quella mezza sbornia, mise tutti d'accordo. Ma Ghisola non se la sentiva di faticare come le sorelle, che la chiamavano tra sé la signorina delicata. Non voleva sapere di starci insieme, e quando le era possibile, andava nel campo, sola. Non le volevano male, ma lei trovava sempre modo di smetter subito qualunque discorso che volessero incominciare. Anche alla messa andava sola, e ripensava appoggio a Meli. Già tornare a Radda era stato un dispiacere, e Borio soltanto lo capiva. Ella gli diceva sempre che non ci sarebbe rimasta, a costo di farsi ammazzare. Il vedovo condusse a casa Ghisola, che non aveva mai voluto dar retta a nessun giovinotto, perché si teneva molto da più di tutti. Scesero per una strada ripida, sempre più buia, che porta fuori dal paese, accanto alle file dei cipressi folti, entrando poi nei campi. Percorsero un sentiero scosceso a metà di un grande poggio nano e coperto di querci alte. Ghisola, a cui Borio piaceva molto, camminava un passo innanzi, un poco triste, come succede sovente dopo l'allegria insolita e quasi involontaria di una festa. «Perché ella non mi guarda più?» Gettò via il sigaro, che ora gli faceva male e gli aumentava la confusione. Erano soli, tutta l'altra gente non si sa dove fosse scomparsa. Pareva che Ghisola volesse farsi sempre più piccola, camminando quasi senza vedere. E se non ci fosse stato Borio, a cui stava vicino ascoltandolo respirare, sarebbe andata a battere in qualche proda. Di quando in quando inciampava. Le sue gambe parevano intirizzite e così lunghe che ad ogni passo la facevano rintronare tutta. E allora pensò di fermarsi. Credeva di aver bevuto troppo e si sentiva portar via la testa. Senza avvedersene, sospirava sollevando lungamente lo stomaco. L'oscurità, con la luna palpitante sotto un velo di nuvole, empiva ogni parte di ombre fievoli e trasparenti. Allora egli la prese per mano ed ella lasciò fare. Gli pareva che Ghisola fosse diventata un essere debole, quasi buffa, ma capì. La baciò ed ella si discostò trasalendo. La baciò ancora, guardando dopo fissamente la sua nuca. Ma forse non sarebbe riuscita a baciarla un'altra volta, e siccome non si voltava addietro le cinse la vita con il braccio. Stava zitta. Ella aveva paura di parlare quanto dell'ombra di quei cipressi, le quali all'improvviso, subito fuori del paese, attraversavano la strada, risalendo come fossero vive, con una cima su per il muro dalla parte opposta. Ad un tratto si sedette a metà del viottolo sopra una pietra, nascondendo la faccia con lo scialletto caduto giù dai capelli, e sopra le mani. Mani che parevano di ferro, come le punte del forcone. Egli, volendole parlare, pur non sapendo come, dovette abbassarsi tutto. Non gli pareva di essere accanto a quella Ghisola che conosceva da tanto tempo e che era con lui anche poco fa. E la strinse le gambe l'una contro l'altra, così insieme che somigliavano ad un aratro voltato in su. Allora Borio, dopo una lotta silenziosa con le mani, poté dire, sentendo già il rimorso, senza nessuna volontà, «Ti dico sì, ti dico di sì». Le loro dita sudate si sgusciavano. Egli aveva voglia di storcergliele. Si guardavano come quando si sta per leticare, perché ormai era impossibile smettere. Ella allontanò le gambe e poi pianse. Borio ci si era perso e l'avrebbe sposata, ma anche il suo fattore la possedette, e ambedue per gelosia ne sparlavano con tutti. Allora molti di quei giovanotti da lei respinti non la lasciarono più in pace. Andavano a cercarla nel campo, sotto i fichi, i peschi, l'appostavano quando tornava attraverso i ginepri. Si doveva difendere a morsi con le unghie, piangendo e rifugiandosi a casa di corsa. Allora le veniva da ridere e aspettava che passassero sotto la sua finestra. Qualcuno cercava d'arrampicarsi anche su per il muro. Poi facevano le sassaiuole alla porta, ma il fattore voleva tirare qualche fucilata come alle lepri. Ma ella, per non buscarne tutti i giorni dei suoi e per essere più indipendente, trovò servizio di una signora della Castellina, un altro paese distante da Radda a pochi chilometri. Una ragazza venuta da un altro paese vicino e conosciuto si porta sempre con sé tutti i pregiudizi con le simpatie e le ostilità che quello ha. Ora, a Ghisola s'erano aggiunte molte dicerie che facevano ridere. Il prete, avvertito certo da quell'altro di Radda, rimproverò la signora che l'aveva presa al servizio. La giovane sentì in lui un persecutore fanatico. Lo vedeva bene dalla sua fisionomia alterata e biancastrona, quando egli la guardava torcendo la bocca tutta da una parte con occhi noccioluti e miopi. Ed ella allora camminò più rimpettita, più lasciva, come un'anatra che tiene alto il becco. Come odiava Radda ora! No, Borio non avrebbe fatto così con un'altra delle sue sorelle, per esempio. Rivedeva tutta la processione, anzi si divertiva riconoscendo a uno quelli che cantavano senza badare a lei, dicendo mentalmente i loro nomi, dietro quel crocifisso nudo e tarlato, con le gocce di vernice rossa come sangue vero, che battesse in terra spaccando gli zoccoli di tutta quella calca. Le pareva che la processione entrasse vertiginosamente dentro i suoi occhi. Il baldacchino un poco sghembo e la musica riecheggiata come se suonasse anche la Valle Tortuosa a nicchia. Quella musica quasi che parlasse e il suono delle campane così forte da farle staccare. Ghisola aveva creduto di trovare alla Castellina gente che s'occupasse meno di lei. Ma questa differenza non c'era. Tutti sapevano qualche cosa. E chi non la sapeva se l'inventava. Il sindaco ne era impensierito perché diventava un vero scandalo e diceva che certe donne stanno bene nella città e non nei paesi. E poi alla Castellina. Ma Ghisola gli piaceva e ci faceva invece anche il galante. E là, benché ce ne fossero parecchi, non trovò nemmeno uno da farci amicizia. Perché appena si parlavano c'era sempre la persona che li scopriva e andava a dirlo. Così non avevano più il modo di riavvicinarsi. Per i signorotti poi si trattava di un divertimento molto allegro e ognuno se la spacciava per la sua amante. La mezza dozzina di signorine in fondo la invidiavano che piacesse così e che gli uomini la guardassero, benché parlandone male. Per Ghisola diventava troppo e bisognava venir via anche dalla Castellina. Che ci faceva lassù tra quel pettegolezzaio? Dopo nemmeno un mese, per mezzo di alcune amicizie, d'accordo con una mezzana, fu presa da un commerciante di stoviglie separato dalla moglie, il quale appunto voleva conoscere una ragazza di quel genere. Egli, avendola trovata di suo piacimento e disposta, la mise in una casetta nei dintorni di Badia a Ripoli, dove da tutti era chiamato alla buona il signor Alberto. E Ghisola, mandando il suo indirizzo ai parenti, scrisse d'aver trovato servizio. Francesco Siciliano ha letto Con gli occhi chiusi di Federico Tozzi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.